Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Questa redazione mette gli altri animali e l'animalità in genere in pole position in ogni tipo di dibattito. Cerchiamo gli altri animali nelle notizie di attualità, cultura, economia, medicina, alimentazione, filosofia, spiritualità. Restate all'ascolto per capire meglio cosa intendiamo dire. Questa è la puntata numero 660, nella quale torniamo a Roma per aggiornarvi sul caso del rifugio La Sfattoria e dei suoi 140 ospiti non umani condannati a morte dalla ASL. L'etologo Francesco De Giorgio ci propone una riflessione intorno alla questione del salvare gli animali. Andiamo poi a Ravenna, dove è ancora aperto il caso delle centinaia di daini che il Parco del Delta del Po ha messo in vendita al miglior offerente come carne da macello. Su questa vicenda abbiamo un commento da parte del biologo Kim Bizzarri. Andiamo anche in India per parlare di pitbull e in Inghilterra per parlare di come i cani vivono il lutto, un momento ugualmente traumatico, siano essi nobili o plebei. Non mancherà un ragno, una ricetta e tanta ottima musica curata dalla nostra Valentina Baronti. Speriamo di avervi incuriosito. When the music's over, when the music's over, dedichiamo questa puntata a tutti gli animali che nelle Marche sono vittime due volte, vittime della schiavitù e vittime del maltempo. Quando ci sono inondazioni, così come terremoti e altri fenomeni eccezionali, gli animali liberi sanno come prevederli e come prevenirli. Ma gli animali costretti nei recinti, in allevamenti e anche nelle case non hanno scampo. Le urla di dolore di questi individui, doppiamente vittime, arrivano alle nostre orecchie nonostante i dispositivi per allontanarle da noi. È per loro che svolgiamo da più di 10 anni la nostra attività di informazione e di riflessione, per loro e per la liberazione animale. In questa redazione batte un cuore fieramente repubblicano e della morte di Elisabetta II se ne è parlato abbastanza in tutti i canali informativi. Vorremmo però riflettere sul destino dei due cani corgi rifiutati dall'erede al trono inglese. Sgomberati dal palazzo in cui hanno vissuto tutta la loro vita, vengono sostituiti dai Jack Russell di Carlo e Camilla. Premettiamo che ai cani, anche quelli di razza, non interessa assolutamente niente del lusso e che il lusso del quale sicuramente continueranno a godere non li consolerà affatto. I due piccoli corghi stanno soffrendo moltissimo come tutti i cani che perdono la casa nella quale sono cresciuti e soprattutto quando perdono il loro riferimento umano. La storia dei cani reali inglesi però somiglia a tante, a tutte le altre storie. Quando muore il familiare anziano, il cane diventa un impiccio. La casa viene venduta o affittata, il povero animale non interessa a nessun parente e finisce o al canile o parcheggiato da qualche volontario. Come un profugo, un migrante forzato. A tutte queste creature sofferenti va, naturalmente, il nostro pensiero. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. Se Sempre a proposito dei funerali inglesi, ci ha fatto simpatia la notizia di un piccolo ragno che, ignaro dell'attenzione mediatica mondiale, è spuntato dai fiori dei funerali di Elisabetta II e ha camminato senza ombra di imbarazzo e riverenza sulla bara della regina. La vita continua e non siamo tutti ugualmente afflitti da sudditanza e voyeurismo. La passeggiata del ragno è andata in onda nelle dirette televisive di mezzo mondo ed è stata rilanciata nel web. Qualcuno ha scritto: è il ragno più fortunato del mondo. Noi, non sapendo che fine abbia fatto, non siamo in grado di dire se quel ragno sia stato fortunato. Possiamo solo dire, parafrasando Sid Vicious, Dio salvi il ragno della regina. Abbiamo più volte raccontato l'esperienza di resistenza della Sfattoria di Roma, il rifugio dove abitano 140 tra maiali e cinghiali che sono vittime di maltrattamento, sono stati recuperati da varie situazioni e che, pur essendo sanissimi, sono stati condannati a morte dalla ASL di Roma e avrebbero dovuto essere soppressi con l'elettroshock per prevenire la peste suina. Il ricorso al TAR del Lazio ha consentito un rinvio a giudizio al 4 di ottobre. Nel frattempo il rifugio si è messo in regola con il protocollo di prevenzione della peste suina della ASL stessa e stiamo tutti sperando che entro il 4 ottobre i controlli confermino l'assurdità di questa condanna a morte di 140 animali sanissimi. Nel frattempo cerchiamo di ragionare intorno a questo malato e sempre più violento rapporto tra animali umani e animali non umani, specialmente i selvatici. In questa nostra ricerca di riflessioni originali e interessanti ne abbiamo intercettata una di Francesco De Giorgio, etologo, antispecista, attivista dell'animalità, che si era candidato a ospitare i cinghiali di La Spezia nel suo rifugio chiamato Sparta, riserva dell'animalità, in provincia di Imperia. De Giorgio ha scritto sulla sua pagina Facebook, che vi invitiamo a seguire, «Salvare non basta». E noi gli abbiamo chiesto di approfondire per la nostra trasmissione questa sua riflessione. Sentiamo. Perché io spesso dico salvare non basta? Perché noi troppo spesso, noi troppo umani, ci focalizziamo su un atto che ci mette a posto la coscienza, ma poi perdiamo di vista il dopo. Ricordiamo che la liberazione non finisce col salvataggio, ma è un processo che continua fino alla fine della vita di quell'animale. Quindi una volta salvato, come io preparo il nuovo ambiente per quell'animale, per quella famiglia di animali? Come io preparo un primo spazio in modo che quell'animale possa familiarizzare col contesto intorno, osservare il contesto intorno, studiare gli altri animali con cui poi andrà a convivere. Questo, diciamo, spesso viene negato e si pensa che solo appartenendo alla stessa specie tu puoi mettere immediatamente animali con altri animali, tanto poi se la vedono da soli. Questo è un mantra abbastanza presente anche all'interno dell'animalismo, anche all'interno dell'antispecismo. E quindi come disponi il cibo all'interno di uno spazio? Come permetti a quell'animale di dialogare col contesto intorno? Che tipo di avventure puoi facilitare? Che tipo di avventure lasci fluire all'interno di una convivenza? Ogni animale, prima che essere un erbivoro, un carnivoro, un onnivoro, eccetera, è un esperienzivoro, anzi direi un avventurivoro, cioè è un essere vivente che si nutre di esperienze, che mangia avventure, che vanno a costruire il suo vivere nel mondo, il suo essere nel mondo. Quindi un rifugio, un santuario, una riserva dovrebbe avere, diciamo, delle linee guida non solo collegate al benessere animale, che poi cadono spesso nella zootecnia, che è quella che contestiamo, invece la mettiamo in pratica nei rifugi. Invece che un approccio zootecnico, pensare ad un approccio che guardi al punto di vista di quell'animale, al punto di vista di quella soggettività. Soy un verso más, un servidor de la melancolía. Vivo a su merced, pongo mi vida. Como garantía, tengo un corazón que está atascado entre la voz y el alma y que no me deja respirar. Los vientos de la calma. Voy detrás de un tango que acaricia el filo de mi canto, piel de mi desnudo visceral y cauce de mi llanto. Tango como el semen y el sudor, como el amor y el hambre, que me abrace cuando una mujer me duela hasta en la sangre. Tango de mis cosas que decir, te necesito tanto. Llévalas con vos que dentro mío ya no las aguanto. Tango, ya no sé por qué te amo, por mi herida no has cruzado y yo no lloro en las esquinas del pasado. Tango, que nos explica desde Bach hasta Stravinsky. Tango, fuiste en mi vida como un chupetín de whisky. Tango. Passiamo adesso a un altro caso clamoroso che riguarda i daini della Pineta di Classe in provincia di Ravenna. Secondo le autorità, i daini starebbero distruggendo la biodiversità dell'area in una zona dove storicamente il daino non è mai stato presente. Inoltre, i circa 1000 ettari di bosco non bastano a questa crescente popolazione di daini che a branchi escono in cerca di cibo nelle campagne circostanti, spaziando su altri 1500 ettari dove pascolano e, dicono le autorità, distruggono le coltivazioni agricole. Si parla di una popolazione stimata in circa 700.000 esemplari e secondo l'ente parco ci sarebbero i margini per catturare circa 800-900 animali in un triennio. L'area dove è insediato il nucleo di ungulati è al 90% una zona protetta all'interno dei confini del parco del Delta del Po. Quindi toccherebbe all'ente di gestione occuparsi di ridurre il numero degli animali. L'ente però non intende investire un soldo. Saranno gli operatori a occuparsi dell'operazione e il guadagno lo dovranno ottenere dalla vendita della carne. Il parco regionale si è trasformato in un banco di macelleria del mercato rionale, attacca l'associazione LAV. In 3 anni si arriverebbe a un valore equivalente a 83.700 euro, un'operazione di una crudeltà inaudita che, oltre a prevedere un vero e proprio massacro di animali innocenti, mortifica ad opera dei suoi stessi amministratori il valore intrinseco del parco inteso come nucleo fondamentale di tutela della biodiversità. Queste sono le parole dell'associazione LAV, che ha letto le carte che il parco cita a supporto dell'operazione, dalle quali pare evidente che i danni non siano responsabili di grandi danni all'agricoltura, essendo stati denunciati solo 1.050 euro di danni nell'anno 2018. I daini non sembrano rappresentare nemmeno un concreto pericolo per la circolazione veicolare, perché l'ultima segnalazione di incidente è stata nel 2017. Anche sulla famigerata alterazione degli equilibri ecologici del parco mancherebbero dati incontrovertibili. Pertanto, secondo l'associazione LAV, dare il via libera alla cattura per la macellazione dei daini nella pineta di classe potrebbe configurare tutta una serie di reati a carico dei rappresentanti del Parco del Delta: maltrattamento e uccisione di animali senza necessità, furto venatorio e danno erariale. LAV si è dichiarata pronta a informare la Procura della Repubblica chiedendo il sequestro preventivo degli animali. In realtà i daini sono stati introdotti in molte aree del paese per l'interesse dei cacciatori, fa ancora notare l'associazione LAV, e sarebbe quindi equo chiedere alle associazioni venatorie stesse di mettere mano ai portafogli per organizzare la messa in sicurezza degli animali e la loro sterilizzazione, facendoli così diventare parte integrante della biodiversità tipica del parco. Il 15 settembre scorso, però, alla scadenza dell'avviso pubblico, nessun operatore si è fatto avanti per ottenere l'incarico di ridurre la popolazione di ungulati. A questo punto bisogna vedere cosa succederà. Il parco valuterà come muoversi, potrebbe modificare i termini dell'avviso pubblico oppure pubblicare direttamente un bando di gara. Da parte nostra, sulla questione, abbiamo sentito Kim Bizzarri, ricercatore ed attivista esperto in politica ambientale europea. Cosa dire della questione dei daini del Po? È ovviamente raccapricciante l'idea che vengano mandati al macello e che il parco stia contando i soldi che farà dalla vendita della carne dei daini. Questo è il risultato di 30 anni di politiche neoliberali in cui lo Stato si è spogliato dei propri obblighi e doveri, gestendo i servizi pubblici sempre di più come se fossero delle imprese private. Quindi anche i parchi operano secondo una logica di mercato, riducendo il tutto a una questione di costi e benefici. Nel momento che ci sono troppi daini, uno fa una valutazione e trova che mandarli al macello è la soluzione più veloce e quella che porta più profitto. Questo potrebbe sembrare in conflitto con quello che dovrebbe essere la natura dei parchi, ma essendo i parchi un'estensione dello Stato, essendo la natura dello Stato cambiata, chiaramente anche il modo di operare e di pensare, la logica dei parchi è cambiata altrettanto. E a questi aspetti più macroscopici che fanno da cornice alla questione del Parco del Po e dei daini va aggiunto poi quello che sono un po' le mode all'interno degli ambiti scientifici, e la questione del daino nel Parco del Po non è così differente dalla problematica che affrontiamo da quasi 2 anni in relazione alla scelta dell'ente parco e dell'arcipelago toscano di eliminare tutti i mufloni dall'isola del Giglio perché ritenuti anche loro allottoni, nonostante non ci sia alcuna prova della loro invasività sull'ambiente dell'isola o sull'economia, e mi sembra di capire che la questione dei daini è molto simile. Il parco ha elencato una serie di quelle che sembrerebbero più scuse che dati scientifici che dimostrano l'invasività di questi daini. Dunque, questo tipo di scelte non sembra essere motivate da riflessioni scientifiche, alle quali comunque poi esistono sempre delle soluzioni alternative e non cruente, ma sembrano essere dettate invece da ideologie dominanti e da interessi economici, e purtroppo sembrano questi essere i criteri che definiscono la nostra relazione con gli animali e tutti gli altri esseri che convivono con noi su questo pianeta. Non è dunque per me una questione di come salviamo questi 1.000 daini nel Parco del Po, perché ci saranno poi altri animali in altri parchi domani, dopodomani, l'anno prossimo. Questa è una problematica che, se vogliamo veramente risolverla, dobbiamo andare a guardare uno qual è veramente il ruolo che secondo noi dovrebbe svolgere lo Stato, e poi andare veramente a guardare dentro noi stessi e capire come vogliamo ridefinire la relazione con la vita stessa sul pianeta. Una canción a los misterios para poder pedir perdón a tu deseo. No me castigues frente a mi naturaleza con tu ilusión vistiendo su mejor princesa, que aunque no encuentro la respuesta ni en mi carne, no sé en qué parte, pero entiendo tu belleza. A proposito di devianze, gira in rete una spassosa vignetta che forse avete visto. Siamo nella preistoria e due genitori vestiti con pellicce di animali e con a terra un gran numero di ossa ricevono scioccati e affranti il coming out del loro figlio adolescente. Papà, mamma, sono raccoglitore. Nel mondo animalista e vegan, specialmente sui social, scoppiano spesso aspri dibattiti sull'origine dello sfruttamento animale. E oggi una notizia arriva dal mondo scientifico mettendo in crisi alcune certezze. Sembra infatti che, contrariamente a quanto si ritiene comunemente, le prime forme di allevamento siano state antecedenti alla coltivazione e alla domesticazione delle piante. Pertanto gli umani potrebbero avere allevato animali anche mentre erano ancora nella fase paleolitica, ovvero durante la fase cacciatori-raccoglitori. Questo emerge da uno studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE, condotto dagli scienziati dell'Università del Connecticut, che hanno analizzato escrementi fossili risalenti al periodo epipaleolitico del sito archeologico di Abu Hureira, in Siria, un sito che documenta il passaggio dalla caccia all'agricoltura e alla pastorizia. Resta ancora molto da determinare relativamente alle pratiche di gestione degli animali. Ma è evidente che lo sfruttamento degli animali è molto antico e probabilmente si è intensificato in termini numerici ed evolutivi da quando l'umano ha iniziato a sentirsi diverso e superiore rispetto a ogni altra specie. Partiamo da un fatto italiano di cronaca. In Puglia, a Monteroni di Lecce, una bambina di 7 anni qualche giorno fa è stata operata d'urgenza in quanto aggredita e azzannata al volto dal cane pitbull di casa. Di queste notizie ne abbiamo date molte negli ultimi mesi. Non certo perché ce l'abbiamo con i pitbull, ma perché la questione della selezione delle razze e la sua messa in discussione è un tema a noi molto caro. Invitiamo infatti tutti ad ascoltare nel nostro blog restiamoanimali.it le puntate di una serie di podcast intitolati Che razza di bastardo, curati dal veterinario Massimo Raviola. Questa redazione ovviamente ritiene che i cani pitbull siano a loro volta vittime di un sistema di commercio e di sfruttamento che li mercifica. Quindi la notizia italiana chiama e l'India risponde, perché proprio in questi giorni la sezione indiana della ONG PETA ha chiesto al governo di Delhi di vietare gli allevamenti di pitbull, ma non tanto per le aggressioni verso le persone, bensì come unica soluzione per fermare i combattimenti tra cani. Infatti, nonostante i combattimenti tra cani siano una pratica vietata in India dal 1960, una fitta rete clandestina di scommesse e lotte tra cani continua a fiorire in numerosi stati indiani. E l'unica, seppur drastica, misura possibile sembra essere quella di vietare l'allevamento dei pitbull. L'associazione PETA dichiara nei suoi comunicati che la razza pitbull è la più utilizzata nei combattimenti e quindi la più esposta alla crudeltà degli addestratori, a partire dal taglio delle orecchie. Il risultato di queste pratiche ha reso la razza pitbull la più aggressiva e pericolosa anche per le persone umane. Solidarietà quindi alla bambina di Lecce e solidarietà ai cani pitbull, devastati da quella follia umana che si chiama selezione delle razze. Anche questa settimana abbiamo sfidato il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, chiedendogli di dedicare una ricetta cruelty free niente po' di meno che ai cani pitbull. Riuscirà il nostro talentuoso chef a trovare anche questa volta un nesso? Sentiamo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Per questa puntata del pasto gentile abbandono coltelli e fornelli e mi trasformo in barman. Perché il pitbull che ispira la ricetta è anche il nome di un ottimo cocktail. E già che ci sono, anche un'idea veloce per uno stuzzichino di accompagnamento. Pitbull e foglie in pastella. Ingredienti per il cocktail. 45 ml di vodka, 30 ml di succo di lime, 15 ml di succo di pompelmo, della soda al limone e delle fettine di pompelmo per guarnire. Riempite i bicchieri con del ghiaccio. Aggiungete la vodka, il succo di lime e quello di pompelmo e mescolate delicatamente. Completate con la soda al limone e guarnite con una fetta di pompelmo. Per le foglie in pastella vi occorrono delle foglie di salvia e di basilico, 20 g di farina di ceci, 10 g di farina di riso, 50 g di farina tipo 0, acqua frizzante ghiacciata, sale e olio per friggere. Stemperate le farine con l'acqua ghiacciata fino ad ottenere una pastella liscia piuttosto densa. Pulite e asciugate le foglie di salvia e basilico ed immergetele nella pastella, facendo scolare quella in eccesso. Quindi friggete in olio bollente per pochi minuti. Scolatele e fate asciugare su carta per frittura. Servite in cartocci di carta paglia con un pizzico di sale in superficie. Siamo in chiusura. Vi saluta la redazione al completo, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Valentina Baronti, Gianni Ferrarotti, Anna Granata e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 661 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.